di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La lezione del 2013 credo che debba aver insegnato molto a tutti, quindi sono certo che da parte del Partito Democratico ci sarà serietà e responsabilità nell'affrontare questo appuntamento importante. Qualunque posizione avremo sarà una posizione alla luce del sole, non siamo franchi tiratori, siamo franchi interlocutori. Chiediamo i nomi al PD, loro ci fanno 4 nomi, li facciamo decidere ai cittadini in rete e il nome migliore lo voteremo dal primo scrutinio. Cuperlo, Fassina e Civati, io a loro dico che tutti quanti noi, loro saremo giudicati dalla coerenza dei nostri comportamenti. Non credo che un singolo deputato, per quanto autorevole, possa fare il nome di Prodi se non c'è, come dire, un largo consenso. Dal mio punto di vista c'è, ma non bastiamo io e Civati. Onorevole Civati, buongiorno. Buongiorno. Renzi, bene, grazie. Lei si prepara l'ultima battaglia? Senta, Renzi ha detto i primi non tre. Non è mai l'ultima. È vero, è vero. Soltanto la morte. Senta, i primi tre scrutini si vota a scheda bianca, ha detto Renzi. Poi un nome solo. Sì. Chi è contro deve essere esplicito. Lei è esplicito, vota Prodi subito? Ma guardi, intanto è un po' sorprendente che non si usi bene la Costituzione. Noi potremmo votare fin dalla prima un candidato presidente. Vabbè. Si capisce per... No, questo è un fatto abbastanza curioso. Solo il 5 Stelle mi pare lo stia notando e dica se c'è un nome del PD che ha già praticamente la maggioranza dei grandi elettori, diciamo, nel loro complesso, facciamolo dalla prima. Vabbè, però Prodi, però ci va, Renzi ha detto i primi tre scrutini sono vota bianca, sono scheda bianca, insomma è il segretario del partito, sarà una decisione sbagliata ma l'ha fatta, l'ha presa. Lei vota Prodi da subito? No, io sto cercando di capire se questa candidatura può interessare il mio partito e il Parlamento. Sono un po' più ottimista di Zoggia, che mi sembra un po' modesto, sì. Lo dico sorridendo. Secondo me c'è una riflessione che va fatta, ecco, ma... che deve avere un profilo internazionale, che deve essere una figura politica, che deve essere un uomo d'esperienza di sopra di ogni sospetto, libero anche da certi condizionamenti della politica in questo momento. Secondo me Romano Prodi va quantomeno discusso. Quindi lei lo vota da subito contro le indicazioni di Renzi? No, per capire, guardi, chiaramente. Guardi, no, mi dica una cosa precisa. Lei parla chiaro in genere? No, io oggi le dico che spero che Prodi lo votino tutti. È molto probabile che io lo voti, questo sì. Senta, e chi è insieme a lei all'interno del partito? Cioè Bersani, guardi, è con lei, per essere chiari, parliamo un po' chiari. Bersani credo che sia, è stato il primo a fare il nome di Prodi qualche settimana fa, Zoggia è un esponente vicino a lui, ci sono molte persone con cui sto parlando del mondo bersaniano che stanno valutando questa ipotesi, ci sono sicuramente altre persone interessate, la Rosi Bindi, lo stesso Enrico Letta. Ma da subito lo votate? Ma guardi, però non è un agguato, cioè no, qual è la proposta? No, a carte scoperte, non è un agguato. Chi ha detto Renzi, chi è contro deve essere esplicito, chi è contro a votare la scheda bianca. Perché ho qualche ritrosiana a rispondere, sì, perché fare il nome di Prodi non vuol dire essere contro Renzi, mi sembra una follia, o contro il PD. Le dico, io spero che questa convergenza ci sia in modo più largo in queste ore. Se non ci sarà, glielo dico fra due giorni, però, quando si vota. In generale io sono per votare Romano Prodi. Senta, ecco, perché oggi può ancora cambiare tutto, secondo lei? Se l'Italicum passa con i voti determinanti di Forza Italia, cambia qualcosa nella corsa al Colle? Ma guardi, questo in realtà è già successo, nel senso che la vera sfida c'è stata la settimana scorsa, questo cambio di maggioranza sulla legge elettorale che vale molto più di una fiducia, secondo me, ha già significato un passaggio di fase molto significativo. Può cambiare la corsa al Colle se Berlusconi e Renzi non trovano una quadratura del cerchio che stanno cercando da settimane. Cioè sul nome secco? Quello sul nome secco, dice. Quella sul nome secco. Se ci sono problemi sul nome secco, che fa un po' sorridere come definizione, però insomma... Non è Mario secco, è proprio un secco, esatto, secco da sesso. E soprattutto non secchi, chiariamo questo concetto. Esatto, non è neanche secchi, non è neanche Fassino, che qualcuno individua come aggettivo, diciamo, nel senso del secco, però insomma è quello il punto, insomma, come si diceva fino a qualche settimana fa che il Nazareno non c'entrava col Quirinale, invece c'entra, e come anche questa ipocrisia l'abbiamo levata di turno. Senta, intanto la vittoria di Tsipras cambierà l'Europa? No, guardi, io penso che quantomeno apra un dibattito politico europeo che non c'è mai stato sull'argomento davvero, che crei una discussione, sentivo anche i vostri 100 secondi, sì, sono molto d'accordo. Ci sono degli elementi contraddittori, perché certo, i 40 miliardi di credito con la Grecia li abbiamo, bisogna decidere se esigerli o rinunciarci. Infatti, e poi il rapporto tra debitori e creditori non va banalizzato mai, ecco, si vogliono fare, dire le cose in modo serio, però è anche vero, io sono stato in Grecia più attento all'aspetto sociologico che a quello politico, come molti invece hanno scritto, perché mi pare che la sfida di Tsipras sia stata costruita soprattutto a livello sociale, certo, quindi una grande attenzione a quell'aspetto, però le dico che le condizioni lì sono disastrose, quindi è anche vero che questi creditori quei debiti non li avranno, non li rivedranno mai, mai, tornare a casa. Certo, se vanno avanti così diventa, ci si avvita davvero, come si suol dire. Senta, ma è l'alleanza con la destra un problema secondo lei o no? Ma guardi, è un azzardo, io l'ho vissuta, come dire, nei primi secondi con qualche stupore, però insomma c'è da dire una cosa fondamentale, che il punto programmatico centrale per Tsipras è condiviso con questa forza politica, che è appunto quello di cui stavamo parlando, sì, quindi è l'alleato per lui più affidabile nella sfida più importante che ha lanciato in Grecia e in Europa. Senta, insomma, comunque la leggerei in questi termini, ecco, parla di, ho letto Gramellini che dice che è il patto del Nazarakis, mi sembra proprio un'altra cosa. Il patto del Nazarakis non è male. Senta, un'ultimissima cosa, in ogni caso Tsipras in Europa oggettivamente è un aiuto per le politiche di Renzi e di Hollande, cioè oggettivamente si apre un fronte che allarga lo spiraglio e la prospettiva dello sviluppo. Io sono d'accordo, sono convintissimo di questa cosa, e soprattutto rimette in discussione quel tema fondamentale che è un'Europa che non è politica, e quindi hanno ragione tutti quelli che si arrabbiano, che si indignano, perché non si possono avere politiche economiche e monetarie senza una regia politica un po' più equilibrata. Senta Civati, per chiudere, c'è Buttafuoco, vuol fare una domanda. Buongiorno, vorrei tornare proprio sulla questione Tsipras, ma non è qualcosa di peggio del Nazareno? Me lo spiega perché è diverso? Beh, perché è peggio del Nazareno? Guardi, il Nazareno è organico, è una cosa granitica, facciamo, pesante. No, è un accordo di governo di cui forse dovremmo conoscere meglio tutti quanti, perché non ce l'abbiamo in mano. Le ripeto, secondo me è finalizzata quella battaglia di Tsipras. Sul resto delle politiche, sinceramente, non so come potranno condividere le posizioni su tanti temi, quindi sono anch'io curioso di capire. Ci sarà un problema, dire, bene. Le posso dire che anche altri alleati avrebbero creato altri problemi di ordine politico, quindi insomma. Onorevole Civati, la riaspettiamo. Ci dell'equilibrio di Tsipras. La rispettiamo nei prossimi giorni. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Walhamdulillahi alqa'il. Il capo di Boko Haram, Abu Bakr Shekau, annuncia la creazione di un califfato islamico nei territori controllati dai suoi. Si tratta di una setta islamica estremista attiva dal 2003, che si ispira ai talebani afghani e che ha contatti con Al-Qaeda nel Maghreb. Obiettivo: l'imposizione della Sharia in tutta la Nigeria. Il nome Boko Haram significa vietata l'istruzione occidentale. Ha rivendicato il rapimento di 223 studentesse di un liceo della Nigeria. Sono decine le vittime dell'ennesimo attentato suicida compiuto a Maiduguri. Zarlo imbottita di esplosivo fino ai denti è una bambina di soli 10 anni. Baga non esiste più. La città del nord-est della Nigeria è stata teatro di un'offensiva senza precedenti che ha provocato una strage immane da parte degli integralisti. Una serie di immagini satellitari diffuse da Amnesty International testimoniano gli effetti devastanti degli attacchi, li avrebbero provocato oltre 2000 vittime. Fratel Fabio Mussi, missionario laico del PIMEL, Pontificio Istituto delle Missioni, coordinatore della Caritas della diocesi di Yagua in Camerun, al confine di una delle zone più colpite da Boko Haram. Ecco, padre fratel Fabio Mussi, qual è la situazione lì? No, attualmente la situazione è abbastanza grave, perché tutte le zone confinanti sono sotto pressione da parte di Boko Haram. Attualmente ci sono stati dei grandi afflussi anche di rifugiati che portano ovviamente un scompiglio fino alla zona. Ecco, fratello Mussi, ma lei da quanto tempo si trova lì? Beh, io sono qui dal 2009, quindi ho visto un po' tutta l'evoluzione di questa situazione. Ecco, i Boko Haram fanno veramente molta paura? Sì, fanno molta paura, nel senso che da una parte c'è una crudeltà estrema nei loro interventi e dall'altra non si capisce bene qual è la finalità reale di questa loro azione. Inizialmente c'è stata una motivazione di tipo religioso, di tipo poi politico, che vuole imporre in un certo senso una legge islamica in una realtà dove c'è una buona minoranza musulmana. Perché la maggioranza di chi è, di che religione è? Beh, è mista tra cristiani e animisti. Diciamo che grosso modo si può calcolare che è un po' un 30% per ognuna di queste fedi religiose. Ma i Boko Haram sono dichiaratamente musulmani o strumentalizzano la religione a fini diversi? Cioè, entrambi sono musulmani e poi strumentalizzano la religione, questo sicuramente. Ma con che obiettivo? Allora, l'obiettivo iniziale, come dicevo, era quello di poter ritornare alle origini di un Islam che fosse anche di tipo politico. Adesso il problema si è complicato perché è diventato più ampio e è stato un confronto anche con le autorità della gestione, diciamo, politica della Nigeria, no? Dove sì, c'era un'alternanza prevista tra i cristiani e i musulmani per la gestione della presidenza della Repubblica. Questo presidente ha fatto saltare questa prassi e quindi i musulmani sicuramente non hanno accettato questa situazione. Perché il presidente, era cristiano? È cristiano, sì, è cristiano. Attuale è cristiano, no? Però dovrebbe terminare il suo mandato e lasciare il posto a un presidente musulmano. E invece lui non vuole. Ha dichiarato di voler ripresentarsi per avere il potere, ma quindi questo è una situazione che non è... Che ha innescato anche il problema. Esattamente, esattamente. Qualcuno si oppone concretamente a questi terroristi? Del Cano sta opponendosi in modo serio. È vero che 10.000 persone sono in fuga dai villaggi? 10.000 non so dirle, possono essere anche di più. Sicuramente quello che posso dirle è che venendo a qui Cuseri, dove sono attualmente, c'erano molti villaggi sulla strada asfaltata, la Nazionale 1, che prima erano piene di persone, attualmente sono vuoti, sono proprio deserti. E dove si rifugiano? Si rifugiano verso le grandi città, no? Marwa o Kusseri, oppure più a sud per cercare dei porti più tranquilli dove si possono trovare e rinstallarsi. E cosa fate in concreto voi come Pime, come Caritas, per aiutare la popolazione? Facciamo due tipi di intervento: uno di urgenza, che è quello di occuparsi dei profughi o degli sfollati, e questo vuol dire occuparsi degli aiuti alimentari d'urgenza, certo, la sanità d'urgenza, fare degli interventi anche per dare dell'acqua potabile e di non lasciare i ragazzi per strada, quindi di invitarli e fare tutto il possibile che possano andare a scuola. È vero che nella sua diocesi è stato scoperto un campo di addestramento per bambini, sono state individuate delle ragazze che si infiltravano con addosso esplosivi? Sì, confermo tutto questo. E questo campo di addestramento, che era vicino a Magà, era un campo che era sotto, si era camuffato come orfanotrofio. La gente inizialmente avevano accettato, diceva, è una buona idea di aiutare i ragazzi, ma poi si è scoperto che è così. E i ragazzi che sono sulla strada diventano facile preda di queste proposte dei Boko Haram, perché certo, stanno arruolando molti giovani e se sono per strada sono facile preda. Ma voi come vi spostate da una zona all'altra, facilmente oppure con paura? No, allora noi ci spostiamo da una zona all'altra sempre sotto scorta, no? Ormai per spostarci noi abbiamo delle scorte, diciamo, di militari che ci assistono, no? Il discorso della paura è un po' una paura che va presa un pochettino nel quadro della realtà della nostra situazione, no? Cioè? Tutta la gente qui è sotto queste minacce, perché non è detto che siano le minacce soprattutto per gli europei, sono per tutti. Lunedì, venendo a Cuseri, ci siamo fermati su un posto dove i militari, no, delle brigate di intervento rapido ci hanno fatto vedere sulla strada, c'erano delle macchie di sangue, e io ho detto, questo è il posto dove hanno sgozzato 3 autisti di camion che sono stati assaltati perché hanno rubato questi camion dove c'erano dei viveri. Ormai è anche un problema di fame da parte dei Boko Haram, perché in Nigeria non trovano più alimenti sufficienti per sfamarsi, quindi vengono per rubare, per razziare sul nostro posto. Ma non c'era bisogno di sgozzare le persone, no? Hanno rubato il camion con gli alimenti, potevano andarsene, no? Hanno voluto fare un gesto che è motivato forse da come dice il presidente del Chad, perché sono drogati. Non so se è vero o no, ma è plausibile. Ma l'esercito perché non interviene massicciamente? No, interviene, ma tenga presente che è un tratto di circa 250 chilometri e gli assalti vengono fatti ben curati e ben studiati, no? Quindi tra un villaggio e l'altro magari sono 20 chilometri, assaltano il camion, portano via, il tempo di avvisare i militari, per la gente è già partita. Il confine della Nigeria è a 3 chilometri. Quando sono arrivati, che già li vedevano, erano già in Nigeria. Già scappati. Senta, ma c'è un rischio proprio di una strage, una specie di nuovo Ruanda, oppure no? Questo fatto che è successo a Bagà ci preoccupa molto, perché lì hanno come dire, fatto una strage come tipo Ruanda, come dice lei. Attualmente in Camerun non è ancora arrivato dei fatti simili. Purtroppo li temiamo, come temiamo questo inizio, no, di questi bambini che sono manipolati e utilizzati come kamikaze. Ecco, padre Giulio Albanese, missionario combognano, ha diretto e fondato l'agenzia di stampa internazionale MISNA, che si avvale della collaborazione dei missionari sparsi in tutto il mondo. Ecco, padre Albanese, una rete eccezionale di informazione alternativa, la vostra? Con l'intento dichiarato di dare voce a chi non ha voce, non fosse altro perché sappiamo poco o niente, parafrasando il linguaggio di Papa Francesco, di quello che succede nelle periferie del mondo. Ecco, però negli stessi giorni della strage di Parigi, mentre tutti i media naturalmente giustamente si mobilitavano, Boko Haram al nord della Nigeria hanno fatto 2000 morti, però i media non ne parlavano, 15ª pagina, perché? È un qualche cosa di aberrante. Questo ci fa capire e comprendere col cuore e con la mente che il mondo dell'informazione ha bisogno di redenzione. La verità è che sappiamo poco o niente di quello che succede non solo in Nigeria, a Timbuktu, a Dar es Salaam. Se da una parte è vero che va stigmatizzato il provincialismo, il fatto che c'è sempre un'enfasi eccessiva, soprattutto in Italia, per quanto concerne i fatti di casa nostra, dunque una visione casareccia del mondo, dall'altra c'è da considerare anche che purtroppo nelle periferie del mondo le cosiddette sentinelle del mattino, i cronisti, le grandi agenzie, come dire, non sono oggettivamente nelle condizioni di seguire quello che succede da quelle parti. Ecco, padre Albanese, però ci sono lobby economico-finanziarie e giornalistiche che impongono notizie piuttosto che altro, diciamolo con chiarezza. Sicuramente, anche perché certe notizie forse in alcuni casi è meglio tenerle nel cassetto. Non dimentichiamo che molte delle guerre dimenticate, molte delle ingiustizie e delle sopraffazioni che si verificano nel sud del mondo, in particolare in Africa, sono legate al controllo delle commodities. Appunto. E anche un certo tipo di fondamentalismo. Ma come si fa ad accedere ai grandi circuiti delle notizie internazionali? Come si fa a farle passare queste notizie? Il problema è che il cosiddetto circuito mainstream, quello delle grandi testate internazionali, comunque come dire, ha la sua regia nei paesi del nord del mondo, e questo fa sì che molte volte, a meno che non vi siano persone di buona volontà, colleghi che hanno grande sensibilità, tutto questo solitamente finisce nel dimenticato. Però nel bene o nel male, le grandi catene televisive arabe, penso Al Jazeera, all'Arabia, hanno spostato l'attenzione delle notizie del mondo verso il sud del mondo. Che cosa si può fare per allargare? La Chiesa non ha mai pensato a fare qualcosa che risponda, soprattutto con un Papa che parla delle periferie del mondo, che risponda a questa domanda? Sicuramente da parte di Al Jazeera, di queste testate tra virgolette arabe, c'è stato un vero e proprio decentramento narrativo, anche perché inutile nasconderselo, il mondo sta cambiando. Appunto. Pensiamo ai BRICS, Brasile, Russia, esatto, Cina, India e Sudafrica, che sono i grandi paesi emergenti. Hanno capito che poi in fondo parlare di certe realtà tutto sommato è nell'interesse del mercato. Però devo dire che il mondo occidentale da questo punto di vista è fuori dal tempo e dalla storia. Appunto, siamo fuori dal tempo e dalla storia. E questo significa, a mio avviso, che purtroppo chi fa editoria nel nostro paese non ha capito che si tratta di una grande responsabilità. Io dico sempre, informarsi è un dovere. Ma anche un grande mercato, come dice giustamente lei. Sì, noi stiamo assistendo, soprattutto in Europa, a una progressiva mercificazione dell'informazione. Ora io credo che se da una parte l'aspetto economico è importante, non bisogna dimenticare l'aspetto sociale. È servizio pubblico, sempre e comunque. Padre Albanese, ma siamo davanti quindi a un sistematico processo di rimozione, in qualche modo, provocato da un senso di colpa dell'Occidente e di interessi molto precisi. Guardi, io credo che la sfida, prima ancora che essere sociale, politica, economica, è una sfida culturale. Bisogna aiutare la nostra gente a capire che viviamo in un mondo villaggio globale, che abbiamo un destino comune, e chi fa informazione da questo punto di vista deve essere in prima linea. Abbiamo parlato di Boko Haram, ma è possibile rintracciare una matrice comune alle diverse forme di terrorismo islamico, secondo lei? Dobbiamo stare molto attenti. Innanzitutto c'è un radicamento locale, perché il fenomeno di Boko Haram nasce addirittura nel 2002 e nasce quando un presidente cristiano nel 2000, quindi 2 anni prima, aveva dato l'ok per l'applicazione della Sharia nel nord della Nigeria. Questo significa che vi erano delle componenti ad intra, per intenderci, all'interno del sistema paese. La verità è che c'è una contrapposizione tra il nord e il sud, vi sono antiche rivalità, vi sono oligarchie che si stanno scontrando attualmente in Nigeria, e questo scontro sarà molto evidente in occasione delle prossime presidenziali che si svolgeranno a febbraio. Perché il presidente cristiano non vuole lasciare il potere? Lui si ripresenta, si ricandida e si ripropone il confronto con il suo antagonista, quello delle scorse presidenziali, Buhari. Il problema qual è? È che chiaramente l'aspetto religioso, il fondamentalismo per intenderci, come dire, viene strumentalizzato. In altre parole, noi stiamo assistendo ad una strumentalizzazione della religione per fini eversivi. E chiaramente i Boko Haram sanno molto bene che per bucare lo schermo devono ammazzare anche i cristiani, perché questo è un modo per avere una risonanza a livello internazionale. Ecco, padre Albanese, un'ultima cosa: perché l'ONU non interviene? Ma diciamo che la Nigeria in questi anni ha detto che la questione di Boko Haram era una questione che doveva risolvere il locale, governo nigeriano, e quindi da questo punto di vista non hanno manifestato disponibilità alla collaborazione. Ora che la situazione sta scappando di mano, certamente c'è questa preoccupazione, ma la cosa importante da ricordare è che in questa guerra a pagare il prezzo più alto sono i musulmani. Questa è la riprova che non si tratta di una guerra di religione, ma di una strumentalizzazione della religione per fini eversivi. Mix 24. Piccola signorina, piccola regina, il tempo passa come un treno, come un lampo in mezzo a un cielo sereno. Oggi è successo che il filosofo si è trovato a confortare un disperato. Questo gli diceva che c'è solo una persona al mondo che in virtù di un urto cancella tutto ciò che vivo, tutto ciò che sono. E il filosofo lo ascoltava e nel frattempo gli porgeva delle peonie raccolte nella monade prossima a Himalaya. E il disperato, invece, forte di questo carico di sogni e di parole, sapeva di non avere più modo di svegliare il sorriso. E però prendeva, accoglieva le peonie e siccome era presto, era prestissimo stamattina quando ho preso la metropolitana, e siccome il buio sferragliava coi binari, l'innamorato col suo bagaglio di fiori è scappato via fuori dalla metropolitana, portandosi dietro coi fiori anche il mondo come volontà e rappresentazione, e prendendo la corsa arrivò alla casa della bella amata. e prima di vederla andare via per sempre, svegliò l'amore di un giorno durato un'eternità e gli affidò un messaggio. Ed è un verso bellissimo di Ardengo Soffici: l'uomo più fortunato è colui che sa vivere nella condincenza al pari dei fiori. E questo è Locasciulli che canta. Per fortuna che buttafuoco c'è. Sì, Schopenhauer alle 9.35. E poi in verso di Ardengo Soffici. Non è presto, perché noi ci svegliamo prestissimo. Ardengo è il nonno della nostra... di Caterina. Andiamo, Caterina, con le bolle. Che sta a Londra. Andiamo, Beata, con queste bolle nostre. Allora, stanno succedendo un sacco di cose qui sotto, ho sentito un po' di tutto. Ci occupiamo di guerre perché insomma l'agenda è molto nutrita. L'abbiamo fatto con Boko Haram, andiamo avanti. Sì. Beh, tutte le cose che ha detto padre Albanese eccetera non riguardano noi, no. A questo lo dico anche immodestamente, se c'è gente che guarda oltre è qua, almeno finché ce lo fanno fare insomma. Che pessimismo, ci sono... vai. No, che pessimismo. Dai. Allora ti citerò Churchill. Che cos'è un pessimista? È un ottimista ben informato. Okay? Allora, era Churchill. Allora, ci sono due guerre che noi abbiamo sempre seguito e di cui forse è il caso di dar conto oggi. Una è quella in Siria, l'altra è quella in Ucraina. Allora, a Kobane, grossa notizia questa, i macellai di ISIS sono stati respinti. Questo significa che con una campagna aerea oculata e con però i soldati, perché poi c'erano i curdi, senza la fanteria non si fa niente alla fine, questo è un nemico che si può ovviamente, certo, sconfiggere. I miliziani di ISIS sono stati decimati, si contano qualche migliaio di morti, e il problema ovviamente è che metà Kobane è stata distrutta ed è successo di tutto dal punto di vista degli orrori della guerra, violenze sulle donne, sui bambini, morti, mutilati, torturati, è qualcosa di allucinante. C'è un altro punto invece del globo dove si combatte duramente, è una crisi che noi abbiamo seguito quasi giorno per giorno, e insomma in Ucraina le cose non si mettono bene per Poroshenko. E non si mettono bene perché l'inno dell'ex Unione Sovietica è là, nel senso che poi con Putin alla fine non si scherza. Noi l'avevamo detto tante volte, che tu non metti un cioccolataio... Poroshenko, quello era, dentro un carro armato, e alla fine insomma il risultato è che l'est dell'Ucraina è saldamente nelle mani dei ribelli, certo, filorussi, e l'esercito di Kiev, che di Kiev non è, ma è l'esercito diciamo etero diretto della NATO, le sta prendendo di santa ragione. È un disastro militare assoluto, totale. Basta vedere che cosa è successo appunto con l'aeroporto a Donetsk. Certo. Allora, trattandosi di guerra, non di cioccolata, aggiungo che i danni collaterali, brutto chiamarli così, ma tecnicamente questo è, ci sono, i missili cadono dappertutto, a Mariupol è successa una strage. Io sommessamente dico una cosa, che una democrazia che comincia, sottolineo democrazia, che comincia bruciando vive le persone a Odessa, poi non può avere che questo epilogo alla fine. Quindi si mettano un tavolo e facciano la pace. E speriamo. Salamino! Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta quando a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. Figurati che faccio il corazziere. Quirinarie o quirinalie, che dir si voglia, i nastri di partenza ci sono, i campioni e i campionissimi che arriveranno primi al traguardo del cuore di Matteo Renzi e si faranno eleggere Presidente della Repubblica. Primo requisito, non fare ombra al Premier. Ecco, questa è la seconda carica dello Stato impegnato nella supplenza. Già ha preso confidenza e non vuol lasciarsi fatta residenza. Pietro Grasso. E Ecco, Pietro Grasso vorrebbe tanto restare e ben saprebbe come farsi amare coi suoi pensierini che tanto piacciono ai grandi e ai piccini. Dopodiché una cupa atmosfera. Una cupa atmosfera introduce al secondo campione, pronto ad arrivare prima al traguardo del cuore di Matteo Renzi e, insomma, la giusta interpretazione, prima ne faceva riferimento Civati, però la giusta interpretazione l'ha data ieri Antonio Polito quando ha saputo decifrare la dichiarazione di Matteo Renzi, e cioè quando il premier ha detto sabato il PD darà un nome secco. Polito ha spiegato le quotazioni di Piero Fassino aumentano, ma arriva un altro. Ritorna a casa Spiri Gonzales, devi lasciare che fare e devi smettere di riserva prendere. Della Repubblica qual è? Mancare mai. Giuliano Amato, topetto veloce, qual è? Inganna l'attesa facendo, le ho contate, 87 conferenze, 8 libri e 327 partite di tennis, ma in questa gara per arrivare primi al traguardo del cuore di Matteo Renzi non può mancare l'anima cattolica. E chi è? Mattarella, che tradisce una certa Tremarella nell'aver scalzato Prodi, già potente mortadella, e sebben sia democristo garantisce più di ogni altro il tristo comunista. Avanti o popolo alla riscossa della serie che da un democristiano solo questo puoi ricavare. Ricordate Oscar Luigi Scalfaro? Era meglio Togliatti. Comunque io vedo Casini, poi vedete voi. Ieri è stata presentata una borsa di studio Best sostenuta dall'Enel che permette ai giovani italiani under 35 più promettenti di trascorrere 6 mesi negli Stati Uniti presso le aziende della Silicon Valley. Ammessi al bando giovani ricercatori under 35 che lavorano per introdurre innovazione sul mercato attraverso la creazione di start-up. Ecco, le domande possono essere mandate a questo indirizzo best@fulbright.it entro il 20 e il 27 marzo 2015 noi racconteremo i casi più interessanti dell'ultimo trimestre del 2014, appunto, che arriveranno oggi. Ci sono numeri pazzeschi: 65 milioni di iPhone venduti, Giovanni, 27% in più, 22 milioni di iPad in calo, ma pur sempre 22 milioni, 5 milioni e mezzo di Mac. Che vuoi che ti dica, questi sono bravi alla fine, cioè, non c'è dubbio. Stiamo parlando di un'azienda che nell'ultimo trimestre ha totalizzato lo stesso fatturato che si prevede totalizzi Google in un anno. Dunque, che cosa dire? Che il software è bello, si fanno anche tanti soldi, ma poi alla fine bisogna sposarlo con l'hardware. Vero Buttafuoco? Vero anche il contrario, l'hardware senza software non va da nessuna parte. Devono stare assieme, è ferro. È così, è come Salamino. Un uomo solo, alla fine non va da nessuna parte. Salamino. Salamini filosofici oggi. Oggi sì, oggi mi voglio votare alla filosofia, però mi faccio aiutare da un filosofo. E il nostro ospite al telefono Diego Fusaro, autore de Il futuro è nostro, un saggio Bompiani Parte l'inno sovietico. Parte l'inno sovietico. E volevo chiedere a Diego Fusaro, buongiorno. Innanzitutto questo, cos'è la quarta guerra mondiale di cui lei parla? Buongiorno, La quarta guerra mondiale è la guerra successiva alla terza guerra mondiale. La terza guerra mondiale è stata la guerra fredda, vinta dagli Stati Uniti d'America contro l'Unione Sovietica, e terminata la terza guerra mondiale è subito partita la quarta nel 1989, che è la guerra che gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato a tutti i paesi del mondo che non si piegano al loro dominio. Questa quarta guerra mondiale, come ho cercato di chiarire nel mio saggio, ha come obiettivo l'instaurazione del dominio monopolare del mondo da parte degli Stati Uniti d'America, i quali Stati Uniti d'America dall'89 ad oggi hanno sempre bombardato i popoli resistenti, legittimando il proprio bombardamento tramite l'ideologia ora del terrorismo, ora dei nuovi Hitler, ad esempio Milosevic, Saddam Hussein, Gheddafi, al solo fine Assad di ultimamente, naturalmente Putin anche, col solo obiettivo di legittimare le nuove Hiroshima. Come si colloca dunque la strage di Charlie Hebdo in questa quarta guerra mondiale? Dunque, la strage di Charlie Hebdo mi pare del tutto interna a questa quarta guerra mondiale, anzitutto perché sta di nuovo accampando l'ideologia anti-islamica che sta diventando guidata artatamente dalle logiche del potere, sta diventando ormai insopportabile, perché si fa un'equazione del tutto ingiustificata fra Islam e terrorismo. So è come dire cristianesimo crociata o cristianesimo inquisizione, una sciocchezza. Un'ultima domanda: dove, come e fino a quando la filosofia potrà aiutare il mondo in questa fase? La filosofia potrà sempre aiutare il mondo, perché non potrà mai estinguersi, con buona pace di quelli che dicono che la filosofia è morta. Bisogna però che riconquisti una funzione critica e oppositiva, perché oggi per lo più la filosofia è in mano a semplici gestori concettuali dell'esistente, apologeti della realtà, che anziché condannare queste guerre criminali come la quarta guerra mondiale le giustificano filosoficamente. Grazie Fusaro, e quindi ci avventuriamo negli Holzwege, i nostri sentieri interrotti. Sara, ci sono le sfilate a Parigi. Sfilate però blindate, fatte di metal detector, controlli continui, tutti i documenti alla mano. L'allarme terrorismo infatti arriva fino alle passerelle, ma nonostante questo si è scatenato il solito circo mediatico. Una cosa però è sorprendente, almeno secondo me. Quando gli stilisti vogliono lanciare davvero una collezione e dare un po' di magia, riportano in passerella le magnifiche top model anni 90, Naomi Campbell, Ever Zigova, Amber Valletta, non so se ve le ricordate Mario. Splendide quarantenni, donne fatte di curve tentatrici, arrivano in soccorso delle smilze modelle di oggi. Insomma, negli anni 90 erano star luccicanti, oggi le modelle sembrano fantasmi persi in abiti costosi. Infatti non ci piacciono. Perché Mario è d'accordo, Mario è d'accordo. Io sono per le quarantenni, viva, alla grande. Per quello ti brave, guardo. Brave, lo so che mi guardi per Senti, quello. A 70 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, dopo il GR va in onda uno speciale di due puntate, oggi e domani, curato da Marina Milone, la storia della pianificazione dello sterminio nazista a partire dalla primavera del 40. L'ordine diceva: devono essere fucilati. E io avevo il dovere di eseguirlo. Ad Auschwitz, i tedeschi hanno intrapreso il lungo e laborioso cammino verso lo sterminio di massa. Quelle donne con i loro bambini in braccio, là dentro. Dunque, dopo il giornale radio, in due puntate, oggi e domani, la storia di Auschwitz e della costruzione del campo di concentramento di Auschwitz. E per finire, è la faccenda, ahimè, è costata il posto a Brian Stockson, la D di Matt, che si dimette. Le bambole? No, Lego no, Mattel sì. Lego fa le costruzioni con le quali io spero tu abbia giocato. Ho già leggevi Schopenhauer da 3 anni. Senti, mai sentito cosa dice Gianluca da Brescia? Cosa complimenti dici? A Sara Tardelli. No. Non sono mai bastevoli, capisci? Non basta la cura della notizia in 3D. Certo, oramai è la star. È la star. E noi che stiamo a fare qua? Allora? Beh, le teniamo compagnia. Butta fuoco, ne trai una conclusione. Dirlo, ed è un star. Una brutta parola. Una stella. È una bellezza siderale. Ah, oggi ci sono le consultazioni. Te, però no, in pole position. Ma io sono molti, monarchico. Molti. Col Borbone. Ma poi magari si cambia. No, intanto, sì. Prima della pubblicità, un ricordo di Demetria Russo. I want it to stay.